Salve. Salve, scusate il ritardo, ma le FS ci hanno elargito 75 minuti di ritardo questa mattina. E siamo qui a parlarvi più o meno, diciamo, di quello di cui ci occupiamo da ormai alcuni anni, cioè le narrazioni, la letteratura, insomma, le narrazioni in senso lato. In realtà il modo migliore che a me è venuto in mente per farlo è parlando di un esempio, raccontando una storia. Una storia che si svolge un migliaio d'anni fa, più o meno. Un evento storico. Un evento storico da cui poi è stato tratto un poema, quindi ci può servire proprio, almeno a me è servito per capire qualcosa sulla storia e il modo in cui viene tramandata la storia e anche la letteratura storica. Ho bisogno quindi che ci spostiamo mentalmente il 10 agosto del 991 d.C. sulla sponda meridionale dell'estuario del fiume Pante, nell'Essex, in Inghilterra. Un luogo che magari qualcuno di voi ha visitato, io no, non credo sia particolarmente ameno, se non per qualche storico particolarmente feticista. Tuttavia, ecco, immaginiamoci quel giorno un signore, un uomo, un nobile, un conte, di una certa età, non più nel fiore degli anni, ben piantato, un uomo alto, quasi più di 2 metri, che scruta l'altra sponda del fiume. È il conte Birtnot, il conte dell'Essex, che alla testa di un migliaio di suoi uomini, di suoi fedeli, che ha raccolto in fretta e furia quella mattina, contempla il contingente di sbarco vichingo sull'isola di Norfolk, un'isola che è proprio in mezzo all'estuario e che divide quindi l'estuario in 2 canali più stretti. Stretti al punto che ci si può vedere quasi parlare da una sponda all'altra. E quindi, insomma, dall'alto dei suoi 2 metri, Birtnot contempla questi vichinghi e si rende conto di essere in svantaggio numerico. Sono circa 3.000, sono arrivati con una 90ina di navi. Lui ha poco più di 1 migliaio di uomini, quelli che è riuscito a raccogliere e radunare quel giorno. Tuttavia ha deciso di resistere all'invasione, tant'è che ha dato ordine di mandare via i cavalli, perché nessuno si faccia prendere dalla tentazione di fuggire. Tutti meno uno, il suo. Ricordiamoci questo dettaglio perché poi ci tornerà utile. Il suo perché, insomma, lui è il conte e deve essere ben visibile al centro del campo di battaglia. A un certo punto, mentre sono lì che si guardano in cagnesco da una sponda all'altra del fiume, giunge dalla sponda vichinga la voce di un araldo. Di un araldo che dice, che fa un'offerta, dice: pagateci un riscatto in oro e noi risaliamo sulle nostre navi e ce ne torniamo da dove siamo venuti, Danimarca, Norvegia, quello che è. In effetti siamo qui per razziare il paese, quindi perché tanto sbattimento, mettiamoci d'accordo. Il conte Birtnot risponde coerentemente al suo personaggio, appunto, ha una fama, diciamo, di nobile integernimo, di aristocratico ligio all'ideale eroico. Risponde sprezzante, sguaina la spada e dice: non ve lo diamo in oro, ve lo diamo col ferro il riscatto, se avete il coraggio di venire a prendere. In effetti i vichinghi ci provano, aspettano. C'è un piccolo dettaglio che forse geografico, che è il caso di chiarire. Il vantaggio di Birtnot, tuttavia, è tattico, dato proprio dalla conformazione del territorio, perché l'isola di Norte è collegata alla terraferma soltanto da una strisciolina di terra, che tra l'altro quando c'è l'alta marea viene addirittura sommersa, quindi solo per alcune ore al giorno è possibile transitare. Quindi è vero che ha un rapporto sfavorevole di 3-1 come forza in campo, però è anche vero che appena i vichinghi provano ad attraversare, lui cosa fa? Sceglie 3 guerrieri più forti che ha, li mette davanti all'imbocco del guado, gli altri con le frecce fanno il loro dovere e i vichinghi vengono immediatamente fermati. Stallo. A questo punto, ci dice il poema, perché è stato scritto poi un poema su questa battaglia, ci dice che i vichinghi, anzi vi leggo i versi così facciamo prima, i versi 84-88, quando s'accorsero e chiaro videro d'aver trovato aspri guardiani al guado, ricorsero all'astuzia gli stranieri ostili. Chiesero di poter avere passaggio, traversare il guado, condurre la truppa. Sono dei versi un po' oscuri. In cosa consisterebbe l'astuzia? Cioè, di solito uno prima chiede di passare, becca un rifiuto e allora ci prova con la forza. Qui è successo il contrario: prima hanno provato a passare, sono stati respinti e allora chiedono permesso, fateci passare. L'anonimo poeta della battaglia di Meldon non ci dice altro, evidentemente c'è qualche cosa di implicito per i suoi contemporanei e che noi dobbiamo cavare fuori. Ci hanno provato i filologi, ci possiamo provare anche noi con una operazione esegetica, diciamo così. Il termine che viene tradotto con astuzia è un termine appunto dell'Old English, l'anglosassone in cui è stato scritto il poema, che è litegian, litegian. Io non studio l'anglosassone antico, se c'è qualcuno che mi può correggere, qualcuno che lo conosce mi può correggere sulla pronuncia, che appunto per alcuni significa astuzia, inganno, per altri avrebbe la stessa radice del verbo litigare, appunto, quindi si tratterebbe di un dibattito, di un litigio, di un sotterfugio di parole, insomma. Sono due accezioni diverse, ma sostanzialmente alludono alla stessa cosa, a mio avviso. E cioè al fatto che il capo dei vichinghi, che è uno scaltro pirata, si chiama Olaf Tryggvason, diventerà poi re di Norvegia. Chi studia la storia scandinava lo sa sicuramente meglio di me, diventato che è un re piuttosto famoso, ma adesso è ancora soltanto un pirata. Olaf Tryggvason, evidentemente, non si limita a chiedere permesso, ovvero nel chiedere permesso sta implicando una serie di cose. Sta sostanzialmente chiedendo a Birtnot, al conte Birtnot, di essere fino in fondo coerente alla sua, al suo ideale eroico. Nelle lunghe notti invernali sulle sponde del mare del Nord, sia Tryggvason che Birtnot devono aver ascoltato i menestrelli che raccontano un altro poema, il Beowulf, la storia dell'eroe svedese che appunto va in Danimarca per liberare la reggia da un orco sanguinario, lo uccide a mani nude, dopodiché uccide anche la madre dell'orco sanguinario che si voleva vendicare, eccetera, perché insomma anche gli orchi hanno una madre. E questo nella prima parte del poeta, quando è ancora, del poema, quando è ancora giovane e forte. Nella seconda parte del poema invece Beowulf è ormai, ecco, diciamo che ha ormai l'età di Birtnot, non più nel fiore degli anni, è diventato re, appunto, anche lui è capo di uomini come Birtnot, e deve uccidere un drago, c'è cioè un drago che si avventa sul suo paese e decide ancora una volta di farlo da solo, senza l'aiuto di nessuno. In realtà poi c'è un vassallo, Wiglaf, che lo aiuta di nascosto, trasgredisce agli ordini e lo aiuta soprattutto a infliggere il colpo finale, il colpo fatale al drago. E Beowulf morirà ovviamente in questo scontro finale, morirà in gloria, gli faranno un bellissimo e lunghissimo panegirico con cui si conclude il poema. È il poema più famoso nel Mare del Nord e molto probabilmente appunto è una cosa che entrambi i capi sulle due sponde del fiume condividono, la conoscenza di questo poema. E Tryggvason in qualche modo fa riferimento a questo poema, cioè usa la letteratura come uno strumento per inchiodare Birtnot. Gli sta offrendo che cosa? La possibilità di morire in gloria, di morire come Beowulf. Gli sta dicendo, probabilmente questa è la tua ultima battaglia, quante pensi di poterne fare ancora? Perché non morire da eroe, appunto? Perché non entrare nella leggenda? Anche su di te, probabilmente, scriveranno un poema. Questo gli sta dicendo con quella richiesta, implicitamente, è chiaro, ma è molto probabile che Birtnot pensi la stessa cosa, pensi che questo giorno di gloria e di morte, in cui pochi cristiani inglesi affrontarono molti pagani vichinghi, lo renderà immortale, e li lascia passare. Li lascia passare e ovviamente sul campo aperto la battaglia è una carneficina dall'esito abbastanza scontato. Una parte dello schieramento inglese si sbanda dopo che Birtnot cade, ma chiaramente lui combatte in prima linea, cade colpito da una lancia, il suo cadavere viene mutilato dai vichinghi, e una parte dell'esercito, dell'armata inglese ovviamente si lascia prendere dal panico. In particolare c'è il vile Godric, così viene definito nel poema, che salta sul cavallo di Birtnot, ecco perché vi dicevo di ricordarvi che almeno un cavallo era rimasto, salta sul cavallo di Birtnot e se la dà a gambe. Molti inglesi credono che sia Birtnot che sta scappando, perché quello a cavallo, e via dietro, e fuggono verso il bosco. Non tutti, per la verità. Alcuni, i fedelissimi del conte Birtnot, invece si incitano a vicenda a rimanere lì e a morire seguendo l'esempio del loro signore come ultimo atto di fedeltà. Sono dei versi abbastanza celebri, il 312 e il 313 del poema, che rappresentano diciamo, l'enunciazione poetica più chiara della cosiddetta teoria del coraggio nordica, appunto. Sono un paio di righe. L'animo deve essere più risoluto, il cuore più ardito, il coraggio maggiore, quanto minore si fa la nostra forza. È cristallino, insomma. L'eroismo è inversamente proporzionale alle possibilità reali di successo. E subito dopo, queste parole vengono pronunciate da un vecchio servitore di Birno, subito dopo lo stesso personaggio dice agli altri: qui giace trucidato il nostro capo, il potente nella polvere, sempre avrà motivo di dolersi chi ora intenda ritrarsi da questo gioco di guerra. Io sono vecchio d'anni, di qui non voglio muovermi, ma io al fianco del mio signore, accanto al tanto amato, intendo giacere. Li convince tutti quanti, si incitano appunto a vicenda e vanno a farsi massacrare. L'esempio secondo me è ancora in qualche modo il vassallo Wiglaf, che appunto va a aiutare Beowulf nell'ultima battaglia. Ma del resto, voglio dire, questa teoria del coraggio è profondamente radicata in quella cultura. Già Tacito scriveva nei suoi scritti sui Germani, appunto, che era un'onta perenne per i Germani sopravvivere al proprio capo sul campo di battaglia. Addirittura durante la battaglia delle Ardenne, credo che sono le testimonianze di alcuni soldati americani che vengono fatti prigionieri dai tedeschi, interrogati, i tedeschi gli chiedono: ma perché dopo che è morto Roosevelt non vi siete suicidati in massa? Perché non vi siete lanciati all'arma bianca contro le nostre mitragliatrici? Ora, il poema è monco, ci manca l'inizio, proprio l'incipit, e ci manca il finale, perché il foglio esterno che racchiudeva le pagine è andato perduto. Quindi il finale, come dire, va immaginato, e alcuni scrittori e studiosi hanno provato a farlo. In particolare uno dei più celebri è Borges, che nel 76 ha prodotto un breve frammento che si intitola proprio Anno Domini 991, in cui lui immagina che una decina di sopravvissuti inglesi alla battaglia, proprio respinti dallo slancio dei vichinghi, si fermano a prendere fiato al limitare del bosco lì vicino al campo di battaglia. Li guida un certo Aidan, che non è un nobile, è probabilmente un fittavolo di Birton, perché dice che quella mattina si è svegliato e ha visto le navi vichinghe che arrivavano, quindi abita nei paraggi, i suoi figli e un po' dei suoi uomini, diciamo, di fatica. Aidan li ha portati lì non per farli fuggire, tutt'altro, sta per consigliargli esattamente il contrario. Li ha portati lì per fargli prendere fiato, appunto, e per designare uno di loro, il suo figlio più giovane, Werther, a sopravvivere. Lui dice: mentre noi altri, adesso in nove, andremo a Meldon, al villaggio qui vicino dove si stanno dirigendo i vichinghi, e li precederemo per una scorciatoia, ci schiereremo in due lati del sentiero, faremo loro un'imboscata, scaglieremo contro di loro tutte le frecce che abbiamo e poi ci scaglieremo contro di loro all'arma bianca finché non verremo uccisi anche noi, perché questo è il nostro dovere nei confronti del nostro Signore. Tu, Werther, devi sopravvivere, perché tu devi scrivere il poema, la battaglia di Meldon, appunto. Tu devi dimostrare fedeltà al tuo Signore in un altro modo. Lui chiaramente dice: no, assolutamente, passerò per vile tutta la vita, eccetera eccetera, ma Aidan non ne vuole sapere. Aidan dice: uno deve rimanere, e uno deve rimanere perché deve trasmettere l'eroismo di Birton. Anche questo è essere dei fedeli. Quindi la dilazione serve proprio anche a questo, il differire l'azione serve a questo, serve a fare in modo che uno la scarichi e che questo uno si incarichi di questa operazione fondamentale per Aidan, cioè per Borges ovviamente: proseguire la battaglia con altri mezzi, proseguire la battaglia con i mezzi della poesia, della letteratura, della parola. La scena finale nel frammento di Borges è crepuscolare, un po' da film western di Sam Peckinpah, se volete, cioè ci sono questi che si allontanano e Werther che li guarda dice: Werther li vide perdersi nella penombra del giorno e del fogliame, ma le sue labbra stavano già modulando un verso. Sta già pensando a come cantare, appunto, l'eroismo di Birknot e dei suoi uomini. E è proprio questo il punto, le parole. I poeti che si pongono il problema di come, di cosa e di come tramandare questo gesto, questo giorno, questo evento. In particolare dovremmo cercare di capire come il poeta, l'anonimo poeta, che il nome non ci è stato tramandato, della battaglia di Meldon, giustifica, motiva il gesto di Birknot, cioè quello di lasciar passare i vichini, un gesto esiziale, rovinoso chiaramente, perché lo porta alla sconfitta sul campo. E sono in verso 89-90. Il conte concesse allora, for his offermod, troppo terreno a quella gente ostile. For his offermod è un verso che, insomma, una locuzione, insomma, che è stata discussa parecchio. Fino più o meno a metà del secolo scorso veniva tradotta per la sua temerarietà. La temerarietà però è un concetto piuttosto ambiguo, non necessariamente negativo. Un temerario era anche un coraggioso, impavido, è un attributo eroico la temerarietà. Poi nel 1953 un oscuro filologo dell'università di Oxford invece disse: no, guardate che vi state sbagliando, non si traduce temerarietà, Offermut, ha un significato diverso, un'accezione diversa, significa orgoglio e non ha alcun significato positivo, tant'è che nel poema ricorre soltanto due volte, una volta riferita a Birknot, questa, e una volta riferita a Lucifero. E i poeti non scelgono a caso le parole e a chi attribuirle soprattutto. E improvvisamente questo oscuro filologo, che l'anno dopo avrebbe pubblicato un romanzo destinato a diventare famosissimo, non sarebbe stato più tanto oscuro, si chiamava John Ronald Reuel Tolkien, cambia completamente il significato di questo poema. Ovvero, forse, io credo, gli restituisce il suo significato originario, cambiando una parola. Scardina completamente il senso dell'intero poema, che fino a quel momento era stato considerato il poema manifesto dell'eroismo eroico. E invece no, dice Tolkien, è il poema della stigmatizzazione dell'eroismo eroico, della sua messa in crisi. Perché? Perché se io dico che il conte concesse allora troppo terreno per orgoglio a quella gente ostile, sto dicendo una cosa completamente diversa. Sto dicendo che Tryggvason era un pirata scaltro, appunto, ma soprattutto sto dicendo che questo nobile, questo Birknot, questo conte, non ha guardato a ciò cui dovrebbe guardare un buon capo, cioè lui era lì per difendere il proprio paese, la propria gente, il proprio re di cui era vassallo, eccetera eccetera. Lo ha fatto? No, ha difeso solo il proprio onore. Posso definirla una buona scelta questa? Tolkien ci dice evidentemente no, è un eccesso cavalleresco, lo definisce così. E anche se nell'opinione coeva medievale può apparire anche come un valore, noi troviamo in questo poema già la sua stigmatizzazione, già un punto interrogativo, già una sottile critica, che forse tanto sottile non è, tant'è che dice Tolkien, guardate, che perfino nel poema precedente, appunto il Beowulf, nell'antefatto, diciamo, nel poema evocato in qualche modo dalla battaglia di Meldon, la stessa pulce, la stessa spia luminosa era inserita. Alla fine del Beowulf, nel panegirico con cui si conclude il poema, l'ultimo attributo con cui viene cantato Beowulf è Leofgeornost, innamorato della gloria, smanioso di gloria. È l'ultima parola del poema, quella con cui poi si chiude. E è molto difficile anche qui che il poeta l'abbia scelta a caso. Quindi esistono, dice Tolkien, delle sorte di bombe a orologeria, lessicali, semantiche, messe dentro questi poemi, che improvvisamente detonano e se li mettono sotto una luce completamente diversa. Lui era talmente convinto di questo che addirittura ha scritto il suo finale, il suo spin-off, prendendo spunto da anche qui da un evento storico, cioè dal fatto che la salma di Birknot venne sepolta dentro l'abbazia di Ely, e quindi l'andarono a prendere sul campo di battaglia, e priva della testa. L'avevano mutilato, appunto, i vichinghi, forse avevano preso la testa come trofeo, forse era rotolata nel fiume, chi lo sa. E quindi Tolkien si immagina il dialogo tra i due becchini che devono andare a frugare tra i cadaveri per trovare la salma dell'eroe e dargli cristiana sepoltura. Ed è un dialogo in versi, in inglese moderno, in versi alliterativi, però tragicomico, grottesco. Un giovane menestrello, anzi aspirante menestrello, il figlio del menestrello di corte, tutto pieno di ideali cavallereschi sulla carta, derivati dalla lettura dell'epica cavalleresca, appunto, dei poemi, e l'altro invece è un vecchio servitore che ha combattuto in passato, non a Melbourne perché è troppo anziano, ma che ha combattuto, ha conosciuto la guerra. E chiaramente il vecchio servitore lo sfotte il giovane, che quando si trova in mezzo ai cadaveri dice: questi eroi grandiosi, vorrei essere anch'io in mezzo a loro, eccetera eccetera. E il vecchio gli dice: ma dove vuoi andare? La battuta del giovane è: mi riesce strano come hanno passato il guado o si sono fatti strada senza combattere aspramente, ma ci sono pochi segni di battaglia. Speravo in un bel nucleo di pagani morti, ma non ne vedo. E il vecchio gli dice: ho troppo pochi. Ahimè, la colpa fu del Signor nostro, o così almeno si diceva a Melton. È la voce popolare, è la gente di Melton che sta giudicando l'eroismo del Signore. Troppo orgoglioso, troppo generoso. L'orgoglio l'ha ingannato e il suo dominio più non esiste, lode al suo valore. Che i normanni guardassero, ha lasciato, tanto era vago di fornire materia ai menestrelli. Inutilmente nobile il suo errore. Archi ben tesi all'imbocco del ponte, con pochi, i molti avrebbe volto in fuga. Beh, ha sfidato la sorte ed è caduto. È il buon senso popolare, il buon senso del vecchio combattente, sostanzialmente. Quindi è l'ansia di entrare nella leggenda, nella letteratura che ha fregato dentro. E anche la sua estrema coerenza con l'immagine dell'eroe, che a tutti i costi ha voluto ricalcare, fino alla fine, appunto. Ovviamente, come dire, questa visione ideologica non cambia la realtà, anche questo il vecchio servitore ci tiene a dirlo, perché una volta morti gli eroi cosa ci lasciano? Ci lasciano i cocci. Mentre ancora il giovane lì che vagheggia, hanno appena trasferito il cadavere sul carro, lui vagheggia, ancora parla di eroi, canta le lodi di Birknot, c'è uno scossone, gli fa sbattere la testa, si zittisce e il vecchio gli dice: già, uno scossone non fa bene ai sogni, ed è freddo svegliarsi, verrà mattina e sarà come tanti, con più fatica che il paese ha mezzo, lavoro e guerra, antichi come il mondo. Questa è la chiave critica che sceglie Tolkien, appunto. È lui che parla, chiaramente, e ci dice: chi resta, poi, deve fare i conti con cosa? In questo caso con un'orda vichinga che penetrerà dentro il paese e metterà a ferro e fuoco al sacco, appunto, il paese. Ora, Tolkien ci tiene a precisare una cosa. La critica all'eroismo contenuta in questo poema è una critica al capo, non a quei fedelissimi che hanno scelto di, come dire, immolarsi per vendicarlo, anche loro coerentemente all'ideale di fedeltà al Signore. Non sarebbe potuto essere altrimenti, non poteva essere altrimenti, perché siamo in pieno Medioevo. Criticare il legame di fedeltà al Signore significa più o meno un'eresia epocale e implausibile. Tantomeno Tolkien può farla propria. Tolkien aveva combattuto nella prima guerra mondiale, l'aveva vista la retorica eroica all'opera sui milioni di fantaccini mandati a morire. Casomai, appunto, avrebbe criticato i capi che gli avevano spacciato quella retorica e che gli avevano mandati a morire. Però se noi dovessimo trarre tutte le conseguenze da questa parola cambiata, allora forse dobbiamo spingerci oltre, dobbiamo dire che sì, è vero, non c'è una critica diretta della buona fede di questi guerrieri. Tuttavia si dice una cosa chiara criticando il gesto di Birknot: si dice che quella buona fede era mal riposta. Ma se era mal riposta, allora era mal spesa. E che cosa significa questo se non mettere in discussione i modelli di quel mondo, che cosa significa se non offrire un punto di fuga dal campo di battaglia, appunto. Ora, punto di fuga, quello che ci interessa, perché ve lo ricordate Gobic, il vile, quello che aveva barattato il suo nome per un cavallo e se l'era data, non era da solo. Innanzitutto c'erano con lui i suoi fratelli, Godwin e Godwin, evidentemente il padre non aveva molta fantasia. E Goldrake. E Goldrake, no. Ma c'erano anche una serie di altri che probabilmente appunto scambiandolo per Tirno, semplicemente approfittando del fuggi-fuggi, se l'erano data. Diciamo un manipolo, un nutrito manipolo di critici, insomma, che applicarono all'eroismo quel giorno, applicarono all'eroismo una dura critica delle gambe levate. E che si diedero appunto alla fuga. Tocca a noi forse immaginare che ne sarà di questo punto. Tocca a noi immaginare questo punto di fuga da quel sistema di valori ovviamente, e punto di fuga da quel campo di battaglia, che però rimane tale, perché abbiamo detto la battaglia continua semplicemente con altri mezzi, quindi con le parole, per l'appunto. Lo facciamo perché crediamo non solo al fatto che la letteratura sia una costruzione collettiva e che avviene attraverso il tempo, ma anche perché crediamo che se uno vuole cambiare il mondo bisogna anche di raccontarlo in una maniera diversa, ed è per questo che le parole sono così importanti e i testi sono così importanti. Abbiamo visto cosa è successo alla battaglia di Mendon cambiando una parola. Il verso 193 ci dice, ci riferisce l'ultimo avvistamento di questi fuggitivi, dice che si ritrassero dalla battaglia cercando il bosco. Tutto qui. Ora però il bosco nella cultura medievale, lo sapete meglio di me, non è soltanto un luogo fisico, è anche un concetto. Le due cose stanno assieme. La foresta è ciò che è fuori, foris, no? Fuori dal consesso civile, fuori dall'ordine del discorso, fuori dalla cristianità addirittura. Nella foresta ci vanno i fuorilegge, ci vanno i banditi. La foresta è anche il luogo dell'altrove, è anche una sorta di al di là, il regno fatato, ci sono i mostri, le creature fiabesche. Nella foresta i cavalieri dei grandi poemi epici di solito impazziscono. È così per Ivano, per Tristano, per Lancillotto, per Orlando. Impazziscono e diventano uomini selvaggi, tornano a essere selvatici, cioè diventano il proprio opposto. Poi però ne escono, e ne escono rafforzati. Ecco, allora, proviamo a immaginarci questi fuggiaschi. Possono essere 100, possono essere 200, quello che vi pare, intorno a Godric e ai suoi fratelli, che a un certo punto nell'intrico della foresta, perché non si fermeranno ai margini della foresta come Aidan, i suoi figli, i suoi uomini, ma andranno molto probabilmente più addentro, a un certo punto si fermeranno stanchi, affannati e si guarderanno in faccia. E molto probabilmente Godric dirà loro qualcosa. Godric che è stato quello a innescare questa fuga. E ce la possiamo forse immaginare così. Godwin, fratelli, e tutti voi ascoltate. Ora che nessuno più ci insegue e il pericolo è scampato, io leggo la vergogna sui vostri volti. È l'ombra di chi ha gettato alle spalle il peso delle armi e delle corazze, dei moribondi e dei morti, per aver salva la vita. La legge dell'onore stabilisce la colpa nel vostro cuore. Da oggi e per sempre voi sarete i rinnegati di Mendon, giacché la sconfitta rende grandi gli eroi, sopravvivere per i vivi. Per voi io non ho che una domanda. Ora che gli eroi hanno saputo morire da eroi, e dopo che le loro spoglie saranno state sepolte nelle abbazie con tutti gli onori, affinché guadagnino il paradiso, chi difenderà il paese dall'ombra mia? Chi proteggerà le vostre case, la vostra gente, ora che il conte e tutti i nobili sono eroicamente caduti? E ancora il cuore a suggerirvi la risposta. Nessun altro che voi stessi. Voi che avete tradito la sorte segnata, voi che avete abbandonato il terreno scelto dal nemico, voi disertori di una battaglia persa, voi che oggi, come me, fuggite e nella fuga costruite nuove armi. Archi e frecce dai rami della foresta, dare di cappucci dal fogliame per scomparire come gli uccelli, sorpresa e astuzia a compensare il numero quando porteremo l'attacco. Rinsaldate gli animi, uomini dell'Esseris, ritrovate il coraggio, perché il momento verrà presto. Allora saprete d'essere vissuti degnamente e non morti in vano. E tu che conosci le parole e i fatti, fa che un giorno, quando di questa viltà non sarà rimasta che l'ombra, si possa cantarla per ciò che è stata: intelligenza, speranza, per proseguire la battaglia.